forza che verrà sarà come un guanto che mi risanerà e guarita io sarò. Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi. Ci doni vita.